Perfetto! Ora che conoscete la lunghezza minima necessaria, leggiamo insieme il codice incantato che regola il funzionamento del pozzo. Il codice recita così. Se la lunghezza della corda è maggiore o uguale a 10, allora acqua raccolta uguale falso. Altrimenti, se la lunghezza della corda è minore di 10, allora acqua raccolta uguale vero. Ma non vi sembra che qualcosa non torni? Riflettete. Quali elementi dovete invertire affinché il pozzo torni a funzionare correttamente? Quando siete pronti, posizionate il tag voce sullo schermo per dare la vostra risposta.